Elezioni in Francia, Macron al lumicino. Afghanistan, i russi hanno pagato i talebani per uccidere gli americani. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Pour ces Bordelais, l'élection d'un maire écologiste est une victoire historique. The GIU is accused of offering bounties to Taliban-linked militants for killing allied troops. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un buon inizio di settimana da parte mia ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono come ogni giorno Antonio Tali, Ilaria Sisana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Danilo Di Trani in assistenza e in regia ritroviamo Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms e whatsapp, anche se preferite la seconda modalità di invio. Per che cosa? Per domande, commenti e anche critiche, perché no? Anche feroci, perché no? Ma mi raccomando, sempre sostanziate di contenuto, niente slogan vacui che ruberebbero tempo invece alle tante informazioni che vorrei darvi in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Potete seguirci anche su Facebook, lì trovate anche la diretta video, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. I due temi che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Molti comuni francesi ieri hanno votato con risultati eclatanti e in parte inaspettati che promettono di ridisegnare il panorama politico francese. Di questo vi darò conto, oltre naturalmente alla spy story in salsa talebana, dovremmo dire, che da sabato sta infiammando il dibattito negli Stati Uniti perché secondo fonti dell'intelligence statunitensi i russi avrebbero pagato fazioni legate ai talebani per condurre attacchi contro la missione internazionale, soldati statunitensi addirittura anche britannici. 349-238-6666, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Che ricordo sono i fatti e le notizie che vi stiamo proponendo in questo periodo qui a Nessun Luogo è Lontano, e visto che questa è una puntata elettorale naturalmente non possiamo non darvi conto di quello che è accaduto ieri in Polonia. Proprio venerdì abbiamo dedicato una puntata speciale di Nessun Luogo in vista di questo importante appuntamento elettorale, cioè le presidenziali in Polonia. Con il 99.7% delle schede scrutinate, la Commissione Nazionale Elettorale Polacca ha annunciato che il capo di Stato uscente Andrzej Duda ha ottenuto il 43,6% dei voti, mentre il suo principale avversario, il sindaco di Varsavia Rafał Czarkowski, si è fermato al 30% e quindi inevitabilmente si andrà al ballottaggio per il 12 luglio prossimo. L'affluenza elevata, secondo la commissione, ha votato il 64% degli aventi diritto e, strano gioco della cronaca internazionale, vedremo che una cifra simile si è avuta in Francia ma di segno totalmente negativo, con forte astensionismo. Secondo i media polacchi citati in un'analisi della BBC, il ballottaggio del 12 sarà di vitale importanza per il paese, un voto che deciderà tutti gli effetti il futuro della Polonia. Il sito di informazione Centrum Report ha pubblicato i primi risultati. Domenica sera Duda ha dichiarato in un commento ai primi exit poll di aver ricevuto molti più voti durante questo primo turno di quanti ne avesse ricevuti 5 anni fa. Naturalmente lo sfidante, il sindaco di Varsavia, ha lanciato un appello ai suoi sostenitori per chiedere maggiore sostegno e ai sostenitori degli altri candidati ovviamente di abbandonare le navi che ormai stanno affondando per puntare tutto sulla nave che lui ritiene vincente. E poi in Pakistan, perché si riaffaccia una minaccia molto molto poco raccontata soprattutto dai media italiani, ma non per questo non importante. Questa mattina erano le 10 ora locale, 4 uomini armati di fucili automatici, bombe a mano, hanno attaccato l'edificio della borsa di Karachi, che è uno dei più importanti centri economico-finanziari del Pakistan, sparando indiscriminatamente mentre passavano davanti a un posto di blocco proprio all'interno di questo complesso. Secondo le fonti ufficiali pakistane, 2 aggressori sono stati uccisi immediatamente in questo checkpoint all'ingresso, gli altri 2 sono stati abbattuti mentre tentavano il 50% sostanzialmente di questo piccolo commando di entrare nell'edificio. Il bilancio vede però anche 3 guardie di sicurezza private, un ufficiale di polizia uccisi e 7 persone che sono rimaste ferite. Chi ha firmato questo attacco e perché? È il gruppo separatista armato Baluchi Liberation Army, BLA l'acronimo, che ha rivendicato immediatamente la responsabilità di questo attacco con una dichiarazione che è stata inviata via mail ad Al Jazeera, all'emittente qatarina, allegando anche un'immagine dei quattro aggressori, il che fa supporre con ragionevole certezza che l'attacco fosse da tempo pianificato. Il maggiore generale pakistano Omer Ahmed Bukhari ha detto: volevano attaccare un obiettivo importante per dimostrare che il Pakistan è un paese non sicuro e per distruggere la fiducia degli investitori. Ma chi sono i miliziani del Baluchi Liberation Army? La questione va avanti da oltre un decennio. I separatisti baluci stanno chiedendo l'indipendenza delle aree etnicamente baluci del Baluchistan, appunto, che è la provincia più grande, meno popolosa del Pakistan, ma ricca, molto ricca di giacimenti minerari. E poi ci muoviamo a Hong Kong, perché di 53 arresti per assemblea o assembramento illegale il bilancio delle proteste che si sono svolte ieri a Hong Kong contro l'abbiamo raccontata tante volte, quella legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica che Pechino si appresta a varare proprio in questi giorni. Entro domani, peraltro, potrebbe arrivare una decisione finale sulla legge, che ha già passato una seconda revisione da parte del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, che è il vertice dell'organo legislativo del Parlamento cinese. Le tensioni, dicevamo, nell'ex colonia britannica sono avvenute nel distretto commerciale di Mong Kok. Le forze dell'ordine hanno usato spray urticante per disperdere la folla. I manifestanti avevano provato a bloccare le strade. La protesta di ieri era stata decisa in seguito alla dichiarazione e decisione da parte della polizia di negare l'autorizzazione alla manifestazione del 1 luglio, che è una data simbolica per Hong Kong, perché segna il ritorno della città sotto la sovranità di Pechino. Infine, la settimana scorsa si sono sentiti i ministri degli esteri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerrini, si sono sentiti nelle aule delle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, perché tra poco vi sarà la delibera del Consiglio dei Ministri su quelli che sono gli impegni militari dell'Italia nel 2020 nei vari quadranti. Ebbene, come riportano alcune fonti di stampa, non soltanto Irini, la missione di cui tanto abbiamo parlato, quella contro l'embargo in Libia nel Mediterraneo, ma anche quella di supporto al governo di Tripoli per la lenta e difficile operazione di sminamento delle aree attorno alla capitale libica. E poi Niger, perché con 200 militari e 20 mezzi terrestri l'Italia aderisce alla task force internazionale che si chiama Takuba, che ha compiti di addestramento e supporto al contrasto del terrorismo tra Mali, Niger e Burkina Faso. Il quadro è quello sostanzialmente dell'operazione Barkhane di matrice francese. Proprio la zona saheliana è molto spesso raccontata qui da questi microfoni per le tensioni e i tanti gruppi jihadisti. Le novità però di questa delibera riguardano il Golfo di Guinea, perché nelle acque internazionali tra Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio si assiste a una crescente e preoccupante incidenza del fenomeno della pirateria. Ricordo ancora puntate di anni fa di Nessun Luogo è Lontano, nella sua versione estiva, quella di agosto, in cui facevamo lunghi approfondimenti sulla pirateria somala. Ebbene, ormai da alcuni anni il fenomeno, grazie all'impegno militare internazionale, è quasi tramontato, mentre si assiste a una preoccupante ascesa di attacchi con costi economici incredibili per le grandi aziende, come potete immaginare, proprio nell'Africa occidentale, ed è lì che verranno dispiegati alcuni mezzi. Sforzo complessivo, dobbiamo aggiungere l'impegno anti-ISIS in Iraq, 1100 uomini, UNIFIL in Libano, 1076 unità, oltre a vari mezzi, di cui l'Italia peraltro è a comando, e la missione Resolute Support in Afghanistan, 800 unità, oltre a quella nei Balcani. Queste sono i nostri dossier internazionali, sono gli approfondimenti, i fatti, le notizie che stiamo seguendo io e tutta la redazione. Adesso però andiamo in Francia. Andremo in Francia perché vi devo dare conto di quello che è accaduto alle tante elezioni comunali che si sono svolte proprio ieri, con un certo ritardo dovuto all'epidemia da Covid-19. Questo era il secondo turno. Ci sono un po' di domande che sono arrivate al 349-238-6666 e riguardano soprattutto questo presunto comportamento di una parte dell'intelligence russa che avrebbe prezzolato sostanzialmente alcuni elementi dei talebani per colpire la coalizione internazionale. Un ascoltatore peraltro mi chiede perché gli americani devono scandalizzarsi del comportamento dei russi, hanno fatto la stessa cosa loro negli anni 80 e devono scandalizzarsi perché questa notizia, ma poi ve ne darò conto meglio, sarebbe in possesso dell'intelligence da tempo, sarebbe stata rivelata all'amministrazione statunitense, quella di Donald Trump, alcuni mesi fa. Donald Trump sta negando, ma è evidente che questo è a tutti gli effetti uno scontro diretto tra Stati Uniti e Russia. Andrò meglio nei dettagli, nei meandri di quella che promette essere una spy story che certamente non si chiuderà con le dichiarazioni molto evanescenti del presidente statunitense, i quasi no comment da parte russa e le negazioni totali da parte dei talebani. Torniamo in Francia però, vi dicevo, perché si è votato per il secondo turno delle elezioni municipali. Beh, i risultati sono eclatanti, abbiamo provato a riassumerli in 90 secondi e li ascoltiamo insieme. Da Lione a Bordeaux, da Strasburgo a Grenoble, un'onda verde ha attraversato la Francia in occasione della seconda tornata delle elezioni municipali che domenica 28 giugno ha chiamato alle urne gli abitanti di 4.800 comuni. A Lione, il sindaco socialista Gérard Colombe, che da 20 anni gestisce la vita politica cittadina, ha lasciato il passo al verde Grégory Doucet, del partito Europe Écologie, Les Verts, che promette di fare della città un punto di riferimento in termini di politica ambientale. Nous allons préparer notre ville à affronter les conséquences du changement climatique. Nous allons rendre notre ville écologiquement responsable. A Bordeaux, dopo 73 anni di governo ininterrotto da parte della destra, la vittoria è andata al verde Pierre Urmic, che con il 48,8% dei voti ha sconfitto il candidato del Partito Repubblicano, Nicolas Florian. J'appliquerai ce programme. Ce programme c'est de doter Bordeaux enfin de la transition écologique qu'elle mérite. A Marsiglia, il nuovo primo cittadino sarà Michel Rubiola, medico e volto nuovo della politica. Esponente del Partito dei Verdi, con il 40% dei consensi ha portato alla vittoria la coalizione Primavera Marsigliese, che unisce i Verdi e la sinistra dopo 25 anni di governo della destra. Una donna sarà il primo cittadino di Strasburgo. Jeanne Barseghian, 39 anni ed esponente del Partito Ecologista, ha ottenuto il 41,7% dei voti. Il faut désormais compter avec la soif de justice sociale. Anche altre città importanti come Poitiers, Grenoble, Besançon e Annecy hanno dato la loro preferenza agli esponenti del Partito Ecologista, il cui supporto è stato fondamentale anche per la vittoria a Parigi di Anne Hidalgo, che con il 49% dei consensi ha ottenuto una trionfale riconferma come primo cittadino della capitale francese. Male il partito di Emmanuel Macron, la République en Marche, che tra le grandi città vince solo a Le Havre, dove l'attuale primo ministro Édouard Philippe ha ottenuto poco meno del 60% dei voti. Risultati in chiaroscuro per il Rassemblement National di Marine Le Pen, che al netto dell'importante affermazione elettorale a Perpignan, perde 2 delle 10 città conquistate nel 2014. Questa è in sintesi quello che è accaduto, il risultato che è scaturito dalle urne di ieri. Se dovessimo battezzare un colore sarebbe verde, se dovessimo battezzare un hashtag sarebbe ecologia. Cerchiamo di capire cosa è successo e come si ridisegna il panorama politico francese. Lo facciamo con Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Danilo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Danilo, è più corretto parlare di debacle per il partito di Macron o di un trionfo inaspettato dell'onda verde, così come la stampa francese l'ha ribattezzata? Ma io direi che il presidente Macron è stato travolto da questa ondata verde, che però era più che prevedibile. Perché era prevedibile? Prima di tutto stiamo parlando del secondo turno e i candidati, molti dei candidati ambientalisti che poi hanno vinto ieri avevano ottenuto degli ottimi risultati al primo turno, che ricordo si è svolto il 15 marzo scorso. Sì. Poi ci sono stati i sondaggi in queste ultime settimane che insomma, come in alcuni comuni c'erano dei testa a testa, ma era un risultato complessivamente previsto. Questo sì. Cosa comporta? Comporta prima un riassestamento, se così vogliamo dire, del panorama politico nazionale. Appunto, prima di tutto proprio a sinistra, perché i partiti di sinistra dopo mesi di allontanamento, di frammentazione, si sono riuniti in coalizioni in molte città, come penso ad esempio Marsiglia o anche a Tolosa, dove però hanno perso. La sinistra sembra aver ritrovato un nuovo slancio sotto i colori degli ambientalisti. Poi sì. Ovviamente c'è la disfatta di Macron, che non è riuscito a capitalizzare tutti gli sforzi che aveva impiegato nei mesi scorsi proprio in vista di questo voto. La voce che state ascoltando è quella di Danilo Ceccarelli da Parigi, e la pagina di Nessun Luogo Lontano è tutta dedicata proprio a questo secondo turno delle municipali. Da un lato grande vittoria di questa onda verde, che però dal punto di vista politico è molto poco strutturata, dall'altra, come dire, segnali di vita a sinistra, e poi la Repubblica in Marcia che subisce una bella batosta. Con Danilo Ceccarelli volevo però esplorare anche un altro aspetto, che è la destra, quella di Marine Le Pen. Non è andata benissimo nella nostra fotografia, quella in 90 secondi, abbiamo detto chiaroscuri per la formazione di estrema destra. Ecco, un tuo giudizio su questo aspetto, Danilo. Ma io avrei un giudizio forse più duro, perché come avete giustamente detto voi, ha conservato 8 sindaci uscenti su 10, quindi ne ha persi 2. Sì, ha conquistato Perpignan e altri due piccoli comuni, uno sì. A nord e uno a sud-ovest. Poi ci sono altri due candidati che erano appoggiati dall'Assemblea Nazionale che hanno vinto, ma stiamo parlando veramente di piccoli centri. Sì. Marine Le Pen ovviamente subito dopo ha gridato la vittoria, perché comunque Perpignan è una città di media taglia, comunque sì. Importante, ma non si può certo parlare di un risultato positivo. Anche il Rassemblement National comunque fatica tanto, Marine Le Pen continua a pagare il suo nome, un nome scomodo, ricordo che il padre ha fondato il Front National diventando poi Rassemblement National, sì. Che a quanto pare ancora fa paura, forse un termine molto forte, però ancora, diciamo, che paga uno scotto forse di un mancato ulteriore rinnovamento politico, e non basta il nome, non bastano operazioni di maquillage evidentemente per convincere alcuni degli elettori francesi, come non è bastato questo appuntamento elettorale però per convincere Danilo Ceccarelli, perché l'astensionismo è stato altissimo. Prima raccontavamo di un altro appuntamento elettorale, quello in Polonia, con oltre il 60% di affluenza, qua abbiamo il 60% di astensione. Ecco, quanto è veritiera la fotografia che ci consegna queste urne, con solo il 40% dei francesi che sono andati a votare, 16 milioni erano quelli chiamati. Sì, esattamente. Beh, un tasso di astensione record che non si era mai visto prima. Si era già registrato un tasso di astensione molto forte il 15 marzo, qui è stato ancora più forte. Non è certo la minaccia del coronavirus ad aver convinto i francesi a rimanere a casa o a partire per il weekend. Sì. C'è una questo è un sintomo di una frattura molto più profonda che in Francia abbiamo visto più volte nei mesi scorsi. Penso ovviamente alle proteste dei gilet gialli che sono esplose verso tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, poi anche le proteste contro la riforma delle pensioni. Macron ancora non convince, è un presidente molto contestato e dovrà lavorare molto in quest'ultimo periodo che lo separa dalle prossime presidenziali del 2022 per riguadagnare il terreno perso, ma sarà molto molto difficile. Sì. Con Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi per commentare i risultati delle comunali francesi, c'è un aspetto, e secondo me Parigi in questo senso è un po' forse la cartina tornasole di quello che è accaduto, che volevo indagare con te, Danilo, prima di lasciarti al tuo lavoro, che riguarda questa sorta di manifesto per Parigi, che è un po' la fusione del programma politico della Hidalgo e invece dei Verdi, come se, come dire, la sinistra francese avesse trovato nei Verdi la benzina giusta per risorgere. Secondo te potrebbe essere una ricetta anche in futuro e anche a livello nazionale che potrebbe la politica francese riproporre, o è qualcosa che rimarrà limitato al pur enorme humus locale di Parigi? Ricordiamo che è una capitale gigantesca comunque. Beh, allora a Parigi abbiamo assistito un po' a un processo inverso rispetto a quello che abbiamo visto in altre città, perché la sindaca socialista Hidalgo si è aggiudicata, è stata confermata con il sostegno degli ambientalisti, a differenza di altre città che hanno visto i partiti di sinistra sostenere e mettersi dietro al dei capolisti ambientalisti. L'ambiente rappresenta l'ambiente, l'ecologia rappresenta un tema fondamentale e sempre più politico qui in Francia, ma anche a causa dello stesso presidente Emmanuel Macron, che ha spesso impostato il suo mandato su una linea ambientalista e diventerà ancora più forte questo carattere nei prossimi mesi. Ricordo che proprio poco fa, qualche ora fa, il presidente ha annunciato, ha fatto degli annunci in seguito alla Convenzione Cittadina per il Clima, che è un'iniziativa che ha raccolto 150 francesi, cittadini estratti a sorte per proporre ed elaborare delle idee per combattere il riscaldamento climatico. Macron ha annunciato che è favorevole a inserire all'interno della Costituzione alcuni temi ambientali. Poi insomma ha teso la mano a questa a questa parte di elettorato che si fa sempre più grande e si fa sempre anche più forte. Sì, e anche più pesante. Certo che Macron ha tentato questa carta, la carta verde, diciamo, però sembra che il suo partito non ne abbia giovato, quasi come se quella politica che detta la linea ambientale, l'agenda ambientale non avesse soddisfatto comunque una parte dei francesi. Grazie mille Danilo Ceccarelli per essere stato con noi. Danilo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. C'è qualcuno che si esprime su questa onda verde, un invidio enorme, scrive un ascoltatore, se penso allo spessore, al livello da una sottiletta da toast del partito Europa Verde in Italia, gli italiani in media non importa nulla del bene del pianeta e questo è un fatto, ci sarebbero molte iniziative per riconvertire in maniera conveniente i sistemi energetici e non solo. E così una ascoltatrice Rossana che esprime sconforto, dice rimaniamo indietro anche in questo. E poi un altro ascoltatore che aggiunge, non so se un crescente distacco politico fra l'Île-de-France e il resto del paese sarebbe positivo. Brexit e Trump sono figli anche del diverso sentire fra Londra, le coste americane e il paese profondo e reazionario. Questo ascoltatore va a sottolineare quello che è tipico di tante democrazie occidentali. Le capitali sono in qualche modo un unicum e quindi Parigi non è la Francia, New York non sono gli Stati Uniti, Londra non è il Regno Unito. Staremo a vedere quelle che saranno le ripercussioni politiche a livello nazionale per il presidente Macron. A questo punto noi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire l'informazione finanziaria e poi apriremo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. That if the Times report is true, I emphasize again. Se quel che ha riportato il Times è vero, significa che il presidente Trump, responsabile delle truppe americane, tra l'altro in un contesto di guerra difficile, sapeva tutto da molto prima dell'inchiesta del Times e non ha fatto nulla. Non ha imposto sanzioni, non ha mosso un dito contro la Russia, nonostante la grave violazione della legge internazionale. E così un Joe Biden al vetriolo risponde a quelle che sono i rumors, come si dice in gergo giornalistico, quei sussurri, quelle evidenze, secondo il New York Times e il Washington Post, adesso ci si è messa anche Sky News, ma comunque finché non vi saranno ulteriori conferme continuiamo a mettere un punto di domanda, benché il pezzone del New York Times di quest'oggi a tripla firma vede fra gli altri un triplo premio Pulitzer, per cui sì, magari qualche dubbio mettiamolo, però anche mettiamo dei dubbi sui dubbi che poniamo. Detto ciò, gioco di parole a parte, qual è la notizia? È che il mondo dell'intelligence, prima in territorio afghano e poi però anche nei piani alti ed è chiaramente un parossismo perché non ci sono piani alti alla Casa Bianca. Comunque anche alla Casa Bianca si sapeva che cellule dell'intelligence russa stavano pagando delle unità di combattenti affiliate ai talebani per condurre attacchi contro le forze della coalizione internazionale, contro le truppe statunitensi e contro, oggi ci si è messa Sky News qualche ora fa a dare la notizia, anche le truppe britanniche. Questa notizia che arriva dal mondo dell'intelligence sta creando un dibattito molto molto acceso, come immaginate. In vista di novembre, evidentemente, il candidato democratico non ha perso tempo per cavalcare questa opportunità. Il New York Times non riporta quelle che sono le fonti, sono fonti dell'intelligence, sono funzionari che rimangono anonimi, e quindi il presidente Donald Trump ha minimizzato immediatamente, ha bollato questa notizia come fake news, ha detto non viene nominata nemmeno la fonte, quindi questa fonte probabilmente nemmeno esiste. L'operazione, secondo la stampa statunitense, sarebbe stata condotta dal GRU, che è l'unità di intelligence russa, che è responsabile di alcune delle operazioni che vi abbiamo raccontato in questi mesi di Nessun Luogo è Lontano, per esempio l'operazione Skripal nel Regno Unito, più una serie di operazioni in territorio europeo di cui spesso vi abbiamo dato conto. Le reazioni e le risposte. Da una parte i russi negano sostanzialmente, lo riferisce il Ministero degli Esteri russo grazie a un lancio dell'agenzia Sputnik, notizie false che danneggiano il processo di pace in Afghanistan, la collaborazione tra diplomatici e americani russi, e secondo altre risposte da parte repubblicana ovviamente si tratta di una congiura, di un complotto dei media assieme al Partito Democratico per svilire invece quella che è stata la buona gestione di Donald Trump anche nel quadrante afgano. Il punto è che anche quando Donald Trump ha cercato di negare che fosse a conoscenza di questa speciale operazione da parte dei russi, non ha risposto sul fatto se sapesse o meno di quel debrief che era stato fatto addirittura a marzo proprio alla Casa Bianca, e che i funzionari dell'intelligence anonimi interpellati al New York Times invece sostengono di aver fatto. Arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno che mi stigmatizza con fra l'altro un linguaggio non particolarmente appropriato, quindi non lo riferirò. Sostanzialmente dice che non riesco a non dare addosso a Donald Trump. Non deve dirlo a me, gentile ascoltatore, deve dirlo alla stampa americana, al Washington Post e al New York Times. Il giorno che, casomai succederà, periodo ipotetico del terzo tipo, vincerò 3 premi Pulitzer, forse, ecco, e firmerò quel pezzo e quell'inchiesta, magari le risponderò in maniera diversa, ma al momento non le posso rispondere. Chi ci può rispondere invece? Aggiungere un piccolo tassello di conoscenza a questo davvero strano mistero che, secondo molti di voi peraltro, al 349-238-6666 va a creare una sorta di benefico contrappasso della storia, perché sapete che la storia afghana è legata a doppio filo a quella prima sovietica e poi della Federazione Russa, e ovviamente a quella statunitense. Se fossero confermati gli scoop di New York Times e Washington Post, vi sarebbe una sorta di riposizionamento della Russia in Afghanistan, cioè i tentacoli di Mosca si allungano sempre di più su Kabul? Lo abbiamo chiesto a Habib Wardak, che è esperto in sicurezza nazionale e insegna alla Cardan University di Kabul. Sentite. So the whole game started with the New York Times article where the New York Times article blamed... L'intera questione è iniziata con l'articolo del New York Times nel quale si accusava l'intelligence russa di aver offerto ricompense ai talebani per l'uccisione di soldati americani. La risposta dei talebani è stata però molto semplice. Hanno negato ogni accusa. I talebani e gli americani hanno siglato un accordo di pace il 29 febbraio 2020 a Doha, e in Afghanistan si è molto vicini all'avvio dei negoziati intra-afghani. Una cosa è certa, ci sono elementi all'interno degli Stati Uniti che si oppongono a questo accordo e stanno cercando di farlo fallire in qualsiasi modo. Dall'altro lato, è evidente che russi e talebani abbiano dei rapporti, e questa relazione si basa esclusivamente sulla minaccia rappresentata da Daesh. Infatti, quando lo Stato Islamico stava guadagnando terreno in Afghanistan, quando Daesh stava diventando più forte in Afghanistan, i russi hanno cominciato a tessere relazioni con i talebani per combattere gli jihadisti. Ora, l'intera questione dei russi che offrono ricompense monetarie ai talebani per aver ucciso i soldati statunitensi mi sembra un'esagerazione. Non c'è dubbio che i talebani abbiano contatti con l'Iran ed è altrettanto evidente che i cinesi comunichino con i talebani. Sappiamo anche che rappresentanti talebani si sono recati a Mosca, a Teheran e in Cina. Quindi sì, i talebani tessono delle relazioni con tutti i paesi vicini della regione. Penso che ciò di cui parla il New York Times sia fondamentalmente un'esagerazione con il preciso fine di sabotare l'accordo tra i talebani e Washington. Penso che con questo tipo di articoli si voglia danneggiare il patto siglato a Doha, cambiando la percezione dell'opinione pubblica americana e della politica statunitense. Il tutto è solo una grande esagerazione. Questa è la voce di Habib Wardak, un esperto in sicurezza nazionale, un afghano, insegna alla Cardin University di Kabul, che tenta di minimizzare, addirittura bolla come una manovra mediatica in salsa elettorale, quello che è lo scoop del New York Times, che avrebbe ottenuto da una serie di alti funzionari dell'intelligence statunitense queste dichiarazioni. E le informazioni arriverebbero proprio dopo una serie di interrogatori che sono stati fatti negli anni a talebani arrestati, i quali avrebbero dichiarato, in alcuni casi evidentemente, di essere prezzolati e al soldo di Mosca. Piccola nota, diciamo, per l'ascolto: ogni volta che noi pronunciamo la parola talebani stiamo inquadrando una galassia molto molto ampia di gruppi combattenti, e questo va tenuto sempre presente. D'altra parte, la stessa intelligence statunitense, secondo il New York Times e il Washington Post, parla di gruppi di miliziani affiliati o quantomeno vicini ai talebani, quasi vi fosse stato una sorta di subappalto per non sporcare l'immagine che i talebani faticosamente negli anni si sono costruiti. Immaginate nel 2002-2003 pensare a un ufficio di rappresentanza dei talebani a Doha, o talebani che andavano in missione diplomatica fino a Mosca o a Teheran, come ricordava Habib Wardak. E quindi la domanda naturale che mi sono fatto e che sono sicuro vi state facendo in questo momento è: di quali fazioni di talebani stiamo parlando che avrebbero premuto il grilletto con in saccoccia un po' di rubli? Sentite. Last bit of analysis would be that there is no such a group as Taliban linked group. È importante comprendere che non esiste un gruppo di guerriglieri collegati ai talebani. O sei un gruppo talebano o non lo sei. È semplice. Se si studia l'organizzazione dei talebani, si nota che fondamentalmente si basa sul concetto di fedeltà e successivamente di obbedienza. Quindi, prestato giuramento, si diventa automaticamente parte dell'organizzazione talebana nel suo senso più ampio. I talebani non consentono a gruppi indipendenti di svolgere le loro attività in modo autonomo. Quindi, quando si parla di organizzazione legata ai talebani, fondamentalmente ci si riferisce ai talebani, e i talebani hanno negato qualsiasi accusa. Questa è la voce di Habib Wardak, che insegna sicurezza nazionale alla Cardin University di Kabul. Noi andiamo sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Il mistero che arriva dal mondo dell'intelligence statunitense. Ancora tanti i punti di domanda su queste rivelazioni che sarebbero state fatte da alcuni funzionari americani. Il presidente statunitense Donald Trump sapeva che elementi delle forze speciali dell'intelligence russa stavano pagando milizie legate in qualche modo ai talebani per aprire il fuoco sulla coalizione internazionale in Afghanistan, obiettivo soprattutto gli statunitensi ma anche i britannici, e questa notizia ripresa poche ore fa da Sky News. Dalla voce di Habib Wardak, che è un esperto di sicurezza nazionale, un afghano, insegna a Kabul alla Cardin University, ai vostri messaggi il 349-238-6666, Marco da Ferrara, che definisce complottari dell'intelligence statunitense e si chiede: ma questi non sono sempre quelli che affermavano che Saddam avesse le armi chimiche, poi puntualmente smentiti perché non le hanno trovate? pur avendo le fatture non pagate, ma per piacere, conclude così Marco, dubitando evidentemente su questo report. Certo, il tempismo, come dire, è particolarmente sospetto, in questi alcuni analisti lo hanno sottolineato, novembre si avvicina e per Biden è una ghiotta occasione per lanciare strali contro Donald Trump e la sua lunga cavalcata verso novembre. Detto ciò, è anche vero che non soltanto il New York Times, ma anche il Washington Post e poi anche Sky News, emittente britannica, si sono accodati nella descrizione di quello che sembra a tutti gli effetti un lavoro di intelligence poi vanificato dalla presidenza Trump. L'ottica della notizia sembra elettorale, ma pensiamo alle ricadute strategiche, così scrive un ascoltatore. Più si amplia il solco fra noi e la Russia, più la spingiamo verso la Cina. Ci conviene? Così si domanda con, direi, un certo acume. Un ascoltatore al 349-238-6666. Da voi torno ad Habib Wardak, docente alla Cardin University di Kabul, per sapere quale impatto può avere questa notizia sui negoziati e su quel lungo, difficile, tormentato processo di pace che è iniziato a Doha, appunto, fra Stati Uniti e Taliban. Sentite. This is not the CIA writing this report or FBI writing this report. It's just a report published by the New York Times which the Taliban have denied. Intendiamoci, non si sta parlando di un rapporto pubblicato dalla CIA o dall'FBI. È solo il rapporto pubblicato dal New York Times e i talebani hanno negato ogni accusa. Non credo di poter avanzare ipotesi o analisi rispetto alla politica estera degli Stati Uniti in relazione a questo fatto. Ma guardando alla situazione in Afghanistan, credo che i negoziati tra americani e talebani stiano procedendo. In questo momento gli americani stanno pianificando rapidamente il loro ritiro, che è parte dell'accordo, e mancano solo poche settimane al dialogo intra-afgano. Penso quindi che queste accuse non avranno un grande impatto sui rapporti tra Washington e i talebani. Sì, è vero, alla luce delle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente Trump potrebbe non aver voluto rivelare niente per non toccare il dossier Russia. Ciò nonostante, credo che il processo di pace continuerà e non ci saranno particolari problemi. Se queste informazioni venissero pubblicate da un'agenzia governativa, la questione potrebbe diventare problematica, ma è solo il rapporto del New York Times. Il punto è che ci sono persone negli Stati Uniti che non vogliono che questo accordo di pace continui e abbia successo. Questo è forse un tentativo di sabotaggio dell'intero processo. This whole process. E questa è la tesi del professor Habib Wardak. Certo, però non ci spiega il professore per quale motivo vi dovrebbe essere adesso un sabotaggio ad accordi quasi fatti, ora che il dialogo si sposta in territorio completamente afghano. Adesso i talebani devono parlare col governo di Ashraf Ghani e lì saranno dolori, perché l'abbiamo raccontato spesso, la fragilità del governo di Ghani, il terzo incomodo, Abdullah, insomma la fragilità dell'autorità statale afghana è cosa nota. Abbiamo provato a raggiungere anche analisti russi per cercare di capire anche da parte loro quale potesse essere l'impressione e la lettura di quello che è accaduto. Andrea Macchioni ha raggiunto Gheorghi Asatrian, che è analista esperto di Afghanistan per il Valdai Club e il Russian Council for International Affairs. Quanto sono plausibili le accuse mosse dal New York Times? Sentite cosa dice il russo. I don't think that the publication in New York Times is true. I see it as element of. Non penso che la pubblicazione del New York Times sia vera. Vedo l'articolo come un elemento di guerra psicologica, dice l'analista, e di informazione all'interno degli Stati Uniti che i democratici usano per combattere i repubblicani e Donald Trump. Sappiamo, conclude l'analista russo, che nel 2020 ci saranno le elezioni presidenziali e il New York Times, che è un giornale schierato con i democratici a sostegno del signor Biden, cerca di intralciare Donald Trump. Mr. Biden trying to fight Donald Trump. Questa è la voce, la laconica analisi di Gheorghi Asatrian, analista esperto di Afghanistan per il Valdai Club, ma anche il Russian Council for International Affairs, entrambi due think tank russi. Andrea Macconi gli ha chiesto anche se questo braccio di ferro sostanzialmente a distanza che viene ingaggiato tra Mosca e Washington fa parte di un più ampio progetto da parte di Mosca per ritornare in Afghanistan e per riprovare quello che in realtà in passato non gli è assolutamente successo. Sentite. I'm pretty sure that Russia is not trying to come back to Afghanistan. Russia has a lot of. E l'analista Asatryan dice: sono sicuro che la Russia non sta cercando di tornare in Afghanistan. La Russia ha molti problemi interni e sta avendo problemi in altri paesi, in altre regioni. E l'Afghanistan è un interesse fondamentale, ovviamente c'è la storia della presenza sovietica, però posso dire al 100% che la Russia non tornerà in Afghanistan in futuro, è assolutamente impossibile. Questa è la voce di Gheorghe Asatryan, analista esperto di Afghanistan per Valdai Club, Russian Council for International Affairs, un altro tassello per cercare di capire quello che è a tutti gli effetti un mistero, le nebbie finché New York Times e Washington Post non aggiungeranno qualche tassello di conoscenza rimangono, ma l'abbiamo detto fin dall'inizio di questa pagina, di nessun luogo è lontano. D'altra parte, far fallire i negoziati di pace sarebbe per l'amministrazione Trump, come sarebbe stato per l'amministrazione Obama, perché il disimpegno afghano è iniziato già nel 2014, un disastro. Pensate che per la guerra contro i talebani gli Stati Uniti hanno speso 975 miliardi di dollari dal 2001 al 2018, con le stime per l'anno in corso incluse, e il costo non è stato solo economico. 2.400 soldati americani sono tornati in una bara avvolti nella bandiera statunitense, oltre 20.000 sono rimasti feriti, anche quello evidentemente è un costo sociale enorme. Però qualche ascoltatore al 349-238-6666 dice: attenzione, perché la macchina bellica statunitense ha bisogno di teatri, ha bisogno di guerre. Però ormai le amministrazioni statunitensi hanno adottato un po' quella pratica di disimpegno dai vari teatri. Dall'altra parte, aggiungo l'ultimo tassello, già che siamo davvero in chiusura, gli interessi invece di Mosca nel paese sono molto molto importanti. Non è un caso che i talebani abbiano fatto anche delle visite a Mosca. L'accesso sostanzialmente all'Oceano Indiano e al Golfo Persico, lo sbocco, come spesso ribadiamo da questi microfoni, dei mari caldi. Per la Russia è fondamentale avere dei corridoi, avere dei buoni rapporti, o quantomeno dei rapporti anche con l'Afghanistan, e da ciò si spiegherebbe questi tentacoli che si allungano nel paese. Detto ciò, a questo punto mi fanno un segno che è inequivocabile e si traduce con una parola sola. E con i saluti e i ringraziamenti a tutto il pubblico di Nessun Luogo Lontano, a tutta la squadra, l'appuntamento è per domani, ore 16, intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.